Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Città Fujiko, siamo ritornati noi di 451 Intersezioni, puntata stasera che raccoglie diciamo una sorta di suggestione legata a un mondo quello dei sintetizzatori che stasera esploreremo attraverso varie accezioni e anche a varie utilizzazioni di questo strumento così universale, così poliedrico nel corso anche degli anni, l'evoluzione tecnologica e via dicendo. Ma prima di entrare nel merito chiaramente della trasmissione di stasera, chiaramente vi porgo i miei cordiali saluti, facciamo così formalissimi, da parte di Elisio Scarpa stasera che condurrà 451 Intersezioni. Vi ricordo chiaramente che sempre, anche per coloro che l'avessero già sentito migliaia di volte, che 451 Intersezioni fa parte comunque di un progetto collettivo, di un network che comprende, oltre a questa trasmissione che va in onda ogni giovedì notte sulle frequenze di Radio Città Fujiko dalla mezzanotte circa all'una e mezza circa, anche la trasmissione 451 Frammenti Sonori, che invece va in onda il mercoledì sempre su queste frequenze, su questa radio, condotta dal compagno amico Max Macchia dalle 23 circa fino all'una circa. E dentro il nostro blog, no blog, ma siamo anche su Facebook, anche se più volte l'ho detto, sono abbastanza inquietato e contrariato dai social network e soprattutto dalla diffusione malata che sta avvenendo un po' in tutto il paese, ma è uno strumento che sembra quasi necessario per poter esistere o farci diciamo conoscere da qualcuno. Siamo presenti dunque anche su Facebook, cliccate 451 Frammenti Sonori, troverete la nostra pagina curata ottimamente, non solo quella ma anche il nostro blog dal nostro altro facente parte del progetto 451, cioè Lorenzo Albano, che saluto da queste onde. E ricordo il nostro blog no blog, che è la nostra pagina ormai da anni sul web, che è sempre 451frammentisonori.noblogs.org, e troverete anche lì tutte le informazioni relative al nostro programma, alle due trasmissioni, a tutti gli eventi che stiamo cercando di preparare per le prossime puntate radiofoniche, anche i collegamenti con artisti, musicisti e progetti che ovviamente ci stanno a cuore, come musica sperimentale, di ricerca e d'avanguardia. E dunque vi ho dato tutte le informazioni tecniche, posso entrare diciamo dentro l'argomento di stasera, appunto i sintetizzatori, e abbiamo voluto costruire questo titolo un po' suggestivo, Sintopia, ecco, una sorta appunto di gioco di parole utilizzando i sinte e utilizzando ovviamente un termine latino combinato al termine inglese per dare l'idea diciamo di una terra immaginifica legata appunto al mondo dei sintetizzatori, che avuto un'espansione storica importante, insomma, già dal dopoguerra, dunque molti decenni fa, all'inizio delle prime sperimentazioni. In realtà certi synth rudimentali erano già stati iniziati a creare in termini analogici, ancora dunque con delle forme piuttosto ridotte di avanzamento tecnologico, addirittura anche già negli anni 30, ma diciamo che lo sviluppo maggiore è avvenuto nel dopoguerra con le prime sperimentazioni elettroniche dei musicisti d'avanguardia degli anni 40-50, per poi arrivare alle evoluzioni soprattutto e le esplosioni dei sintetizzatori negli anni 60-70. Ma stasera ci concentreremo dentro la terra di Syntopia, dentro gli anni 0 e anche 10, chiaramente, dunque questi ultimi 15 anni del nuovo millennio, cercando insomma di fare un piccolo una piccola immersione dentro il mondo dei sintetizzatori negli anni 0, negli anni 10 e giocando anche su varie dinamiche nel modo in cui vengono utilizzati, non soltanto dunque con lo strumento synth concreto, digitale o analogico, vintage, riutilizzato e manipolato dai vari artisti, ma anche forme di synth virtuali, perché insomma con l'esplosione di programmi musicali di editing e di composizione che si sono sempre più evoluti, diciamo, da 20 anni a questa parte, diciamo che c'è stato sicuramente anche un utilizzo sempre più massiccio anche di strumentazioni virtuali, dunque la creazione di veri e propri synth anche dagli artisti stessi sul piano del PC, e anche strumentazioni connesse esterne che manipolano ad esempio synth analogici storici degli anni 60-70 utilizzando effetti e manipolazioni digitali per modificare il suono. Insomma, è un universo molto molto ampio. Stasera daremo un piccolo accenno dentro, diciamo, alcuni musicisti che lavorano sull'utilizzazione di synth sia virtuali che diciamo materiali e concreti, e partiamo con un autore tra i più interessanti della scena degli anni zero, un autore giovane, nato nel 1973, musicista americano importante della scena avanguardia elettronica della sperimentazione. Parliamo di Kate Fullerton Whitman, musicista che ha già diciamo è già passato sulle frequenze di 451 in passato, musicista che gioca molto sulla sperimentazione elettronica, variegando molto anche in termini di linguaggio musicale, dunque anche difficilmente etichettabile. Abbiamo selezionato tra i tanti dischi che ha prodotto dal 2000 fino ad oggi un disco splendido che abbiamo anche in passato già utilizzato in una vecchissima trasmissione. Parliamo di Multiples, uscito nel 2005 per la Cranky, un lavoro splendido di Kate Fullerton Whitman, in particolare certi lavori legati proprio a dei synth storici come lo Yamaha, il Serge Modular, che lui stesso, il Farfisa, che lui stesso poi manipola e utilizza in un modo assolutamente geniale. E sceglieremo dal disco Multiples del 2005 di Kate Fullerton Whitman proprio una traccia che è molto molto interessante nel modo di manipolare i synth, e anche per l'evoluzione che ha il brano in forma minimalista. Stereo Music for Yamaha Disclaver Prototype Electric Guitar and Computer. Ascolteremo proprio questa commistione tra chitarra elettrica, computer e synth in un'accezione appunto di Syntopia di stasera. Buon ascolto dunque con il grande Kate Fullerton Whitman. Thank you. E siamo ritornati in diretta dopo aver ascoltato questo vero e proprio viaggio dentro i sintetizzatori utilizzati, manipolati e costruiti e decostruiti attraverso questa traccia che poi abbiamo anche mixato con la traccia successiva, che era estremamente evocativa, con questi synth appunto molto aperti che davano anche una sorta di rimembranza rispetto a certe sonorità che erano tipiche di certi sintetizzatori degli anni 60-70, che vengono richiamati da Keith Fullerton Whitman attraverso questa traccia che avevo sentito soprattutto nella prima parte, quando partono questi suoni in forma quasi di loop ciclici che ritornano e che poi invece si dipanano invece verso un'idea quasi da micro glitch anni 90 nella parte finale che abbiamo sfumato poc'anzi. In sottofondo abbiamo altri manipolatori elettronici importanti, ma che terranno invece una sorta di tappeto sonoro per tutta la durata della trasmissione, i grandi Affler Trio, gruppo industriale importantissimo degli anni 80-90, ma anche dopo, perché hanno continuato le loro sperimentazioni. E dopo Keith Fullerton Whitman, da questo splendido lavoro del 2005, Multiples, che vi consiglio vivamente di cercare, trovare ed ascoltare interamente, perché è un ottimo album se amate questo tipo di elettronica, questo anche uso dei sintetizzatori che ne fa il grande Keith Fullerton Whitman. E dopo il musicista americano ci spostiamo e andiamo a ritrovare un autore elettronico tra i più interessanti degli anni zero, che ha attraversato tante volte sia 451 frammenti sonori che 451 intersezioni, che ha fatto uscire da pochissimo il suo nuovo album Love Streams, uscito per l'etichetta 4AD, e si tratta di Tim Hacker, che è ritornato diciamo fuori alla luce con un nuovo album dopo un po' di tempo dall'ultimo album, che oltretutto avevamo ascoltato qualche mese fa in una puntata speciale. E in questo disco Tim Hacker un po', devo dire, mi ha spiazzato, perché si è spostato dal suo marchio ormai piuttosto originale, importante, unico, e non è una cosa facile dopo tanti decenni di musica elettronica, di sperimentazione, riuscire ad avere una originalità compositiva, una sua peculiarità sonora, un linguaggio nuovo, insomma, che non è assolutamente rivoluzionario, perché non inventa niente Tim Hacker, non ha inventato nulla, ma ha sicuramente creato un proprio suono, una propria personalità musicale, una propria identità nel corso di questi anni di produzioni musicali. Ma si è sempre mosso dentro una sorta di ambient drone con forti inserimenti rumoristi, dunque creando un ambient drone noise piuttosto unico nel suo genere, anche molto evocativo e suggestivo in molte sue in molti suoi sviluppi compositivi e sonori, creando delle forme di sovrastrutture una accavallata all'altra a livello melodico ed armonico, creando proprio delle vere e proprie orchestrazioni ambientali e droniche in molti brani che ha costruito nel passato. In questo disco invece, nell'ultimo disco, un po' sicuramente spiazza, perché utilizza molti synth e c'è una sorta anche di richiamo molto forte anche qui agli anni 60-70, una certa di Cosmic Music, ma anche un utilizzo ad esempio di forme di cori che vengono manipolati, utilizzati da Hacker a livello elettronico, che sono assolutamente nuove rispetto alle produzioni precedenti. Dunque c'è una trasformazione, almeno una ricerca di qualcosa di nuovo, che devo ancora ben decifrare, nel senso che non ho ancora ben capito se è veramente un nuovo disco, un nuovo anche capolavoro, se zoppica in alcune parti, ma sicuramente le due tracce che abbiamo selezionato sono molto belle, le più interessanti almeno dai primi ascolti che ho avuto di questo disco, e comunque è sempre un autore da ascoltare e riascoltare, in questo caso proprio in questo disco, in Love Streams, forse da ascoltare più di due volte per riuscire ad immergersi meglio e a capire meglio dove vuole andare a parare Tim Hacker in questo disco, che è sicuramente nuovo rispetto alle sonorità precedenti. Immergiamoci dunque dentro anche le sperimentazioni elettroniche, le nuove sperimentazioni di Tim Hacker da Love Streams. Come dico sempre, buon ascolto. E siamo ritornati in diretta dopo questo assaggio dell'ultimo album di Tim Hacker, uscito proprio da poco nel 2016, Love Streams. Lavoro appunto molto, molto curioso, abbastanza sorprendente. Chi conosce Tim Hacker avrà sentito queste tracce che abbiamo ora ascoltato. Ci sono ovviamente degli elementi, ad esempio le parti rumoriste o certi synth che vengono utilizzati, che ricordano i lavori passati, i dischi precedenti, ma appunto questa sorta di orchestrazione corale e soprattutto anche questo tipo di synth e questo tipo di suono utilizzati nella traccia precedente collegata a quest'ultima che abbiamo ascoltato, sicuramente sorprenderà gli appassionati di Tim Hacker, perché qualcosa sicuramente si è mosso, è cambiato. E è interessante comunque continuare a seguire il percorso di questo autore, che nasce negli anni zero nell'elettronica prettamente totalmente digitale, ma che ha sicuramente una forte personalità e è uno degli autori più interessanti di questi anni. E dopo Tim Hacker ci andiamo subito ad immergere in una sorta di percorso dronico che attraverserà, diciamo, linguaggi sonori musicali molto diversi fra loro, ma anche molto vicini per molti aspetti, in particolare la techno, l'ambient, una techno molto scura e molto ossessiva utilizzata da quest'autore, con synth e inserti elettronici, manipolazioni effettistiche estremamente interessanti e importanti, creando un drone, un vero e proprio flusso sonoro che sicuramente ha l'effetto in principio nell'ipnosi, dunque nell'aspetto ipnotico sonoro nell'ascoltatore. Parliamo di Oren Ambarci, autore che conosciamo già da parecchio sulla scena musicale. La curiosità di questo autore australiano, nato nel 1969, e che oltre ad essere un multistrumentista, a suonare veramente una miriade di strumenti, ha iniziato giovanissimo, alla fine degli anni 80, addirittura in una formazione australiana di free jazz. Si è mosso dunque nei primi anni 90 sempre nel territorio del free jazz, dell'improvvisazione, poi radicalmente ha avuto un cambiamento praticamente intorno alla metà degli anni 90, che l'ha spostato sempre di più verso le sperimentazioni elettroniche. Famose anche le sue collaborazioni con il col progetto musicale di Sanò, che ha attraversato spesso anche le frequenze di 451, il drone metal del grande Sanò, l'album ad esempio Monolith and Dimension, che abbiamo oltretutto passato nelle frequenze, nelle trasmissioni di 451, c'è una vera e propria collaborazione di Ambarci con Sanò e altri musicisti importanti della scena elettronica. Viene considerato un musicista che si muove dentro l'ambient più poliedrico e più diversificato. In realtà è un autore molto più aperto rispetto a questa etichettatura e si muove sul terreno della sperimentazione elettronica tout court, ma anche elettroacustica, perché comunque Ambarci continua a lavorare sugli strumenti anche acustici, elettrici, anche se manipola molto di più rispetto ai suoi albori musicali con, diciamo, la strumentazione elettronica. Andiamo a prendere un disco che secondo il mio modesto parere è uno dei più interessanti di Ambarci, oltretutto uno degli ultimi album usciti di Ambarci. Si tratta di Quixotism, uscito nel 2014. Appunto questa traccia in particolare è una traccia che a me ha subito colpito e dal primo ascolto, e soprattutto si inserisce molto bene rispetto al percorso sonoro di stasera di Syntopia. Ce l'andiamo ad ascoltare subito, dunque immergetevi in questo flusso. All'inizio parte molto piano, quasi appena percettibile il suono e la battuta percussiva, poi piano piano si sviluppa e soprattutto verso la fine lascia tutti un po' sorpresi, perché il brano sembra quasi sfumare da solo e lascia un senso di vuoto pazzesco a livello proprio acustico alla fine del brano. Ce l'andiamo subito ad ascoltare, dunque, il grande Oren Ambarci dal disco Quixotism 2014. Buon ascolto.